Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Buongiorno cari ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete provare a cambiare la politica con la rete e anche come potete monitorare la politica sulla rete, che forse è la cosa più importante, uno dei ruoli più importanti che può avere internet da questo lato. È stata una settimana molto intensa perché naturalmente ci avviciniamo al voto, forse il fatto più importante, ci si scherza sopra, della settimana è quel tweet di Mario Monti con la foto del suo cane, Empatia, detto Empi, al quale udite udite hanno creato anche un profilo Twitter, Empi underscore, cioè trattino basso Monti, ed è un'idea dello stesso staff del Presidente del Consiglio. Ma al di là di questo, stiamo giocando, andiamo a raccontare un po' di numeri su quanto effettivamente sta diventando social questa campagna, quanto si sta spostando sulla rete questa campagna elettorale. In questa puntata, più avanti, sentiremo anche un'intervista col presidente dell'Authority per le comunicazioni per parlare proprio di internet, campagna elettorale, par condicio e tante altre cose. Ma prima andiamo sui numeri. Saluto Cosimo Palmisano, fondatore di Ecce Customer. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo raccontato tante volte in questa trasmissione tante misurazioni della influenza dei politici in rete e sui social media. Voi avete misurato invece l'attività, quanto ci stanno su questi social media i politici, Palmisano? Ci stanno veramente tanto, ci sono veramente tanto. Dai numeri che abbiamo tirato fuori attraverso Ecce Customer la settimana scorsa, sostanzialmente ci sono due attività al secondo, considerando giorni e notte. Chiaramente ci sono dei picchi dovuti magari a programmi televisivi, come nel caso di Monti, e quindi diciamo il programma di Daria Bignardi ha fatto un po' da volano a questo fenomeno su Twitter. Però in generale il social, in particolar modo Facebook e Twitter, sono diventati i veri strumenti. Per la prima ragione è perché queste sono probabilmente le elezioni politiche più brevi della nostra democrazia, quindi inevitabilmente tutti i politici si sono lanciati su quello che è il mezzo più facile da utilizzare, più veloce, relativamente a basso costo, e quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che ormai tutti siamo su Twitter, tutti siamo su Facebook, se c'è anche il cane di Monti, questa è la dimostrazione. Naturalmente, chi sono i più attivi? Allora, qui ci sono due modi di vedere la cosa. Si può vedere in termini assoluti, chiaramente Grillo non ha paragoni, nel senso che nonostante abbia il 20% di persone attive, cioè che inseriscono contenuti attivamente su Facebook, chiaramente parliamo di una base fan di più di 1 milione di fan, quindi parliamo di più di 200.000 persone attive, quindi che scrivono contenuti. Per esempio Monti ha una pagina decisamente più piccola, che in questo momento sta crescendo molto, e ha una percentuale di fan attivi tra il 60%, quindi in numeri relativi sembra che la pagina di Monti sia particolarmente ingaggiata, lo è di fatto, però in numeri assoluti chi smuove più persone è senza dubbio Grillo. E poi ci sono una serie di outsider come Oscar Giannino, per esempio, che dai dati veniva fuori che faceva un'attività molto molto molto rilevante su Twitter, posizionandosi addirittura fra i big, quindi fra i vari Vendola, fra i vari Bersani, che sicuramente hanno strutture per la gestione del social molto più grandi. Dal lato PD, che non li abbiamo nominati? Lato PD sono molto attivi. Lato PD, se includiamo Bersani e Vendola, sono assolutamente molto attivi. Ora non ricordo con precisione i numeri, però sono sicuramente fra i primi 2 o 3 posti, però comunque sono nettamente alle spalle sia in termini di numeri assoluti che numeri relativi rispetto a Grillo. C'è un dato secondo me abbastanza interessante, che è quello di Matteo Renzi. Matteo Renzi credo che abbia la pagina più grande Facebook, quindi con il maggior numero di fan in assoluto, e anche molto attivi, però in questo momento, essendo lui fuori dalla competizione elettorale, se non marginalmente attraverso alcuni incontri che ha fatto con Bersani recentemente, la percentuale dei fan attivi in questo momento è decisamente più bassa rispetto agli altri, ma probabilmente è semplicemente dovuto al fatto che è fuori dalla bagarre elettorale di queste politiche. Cosimo Palmisano, prima di salutarla, io però voglio anche sapere qualcosa sulla vostra società Etch Customer, perché è un bel esempio di startup italiana. Ci racconta due cose molto rapidamente? Velocissimo. Allora, Etch Customer è una soluzione che è stata sviluppata per aiutare le aziende a gestire la loro relazione con i clienti sfruttando i canali social, quindi Facebook, YouTube e Twitter. Siamo nati a marzo 2011, abbiamo più di 40 multinazionali che ci utilizzano per fare attività di social customer service, monitoring, eccetera. E la cosa interessante è che Etch Customer è una soluzione, è un verticale di una piattaforma di big data che si chiama Decision, e insieme a ottobre 2012 abbiamo chiuso un round di investimento da 15 milioni di dollari. È il più alto per una società italiana del digitale come investimento, a parte di un fondo americano, no? L'hai detto tu ed è vero. Benissimo. Sì, posso dare un'ultima indicazione? Come no? Secondo me il vero risvolto pratico di queste elezioni e dell'impatto di internet, del social, è che c'è stata una smaterializzazione del fenomeno, nel senso che non si vedono più manifesti in giro, si stampa molto di meno, sono diventate sostenibili. Il che non è male. Vedremo se servirà nel segreto dell'urna. Grazie Cosimo Palmisano, fondatore di Etch Customer, per essere stato con noi. Noi adesso chiudiamo, ci fermiamo e poi ci ritroviamo tra un attimo per il punto di Stefano Folli. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci cari ascoltatori, nella seconda parte del programma, come al solito questo è il momento di fare un punto, un ragionamento un po' complessivo su questa settimana politica, è il momento di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Buongiorno Stefano. Buongiorno Simone, buongiorno. Ieri ultima giornata per i sondaggi, insomma, ultima giornata nella quale è stato possibile diffondere i sondaggi. Tra l'altro di questo tema torneremo a parlare più avanti, perché abbiamo intervistato il presidente dell'Authority per le telecomunicazioni, come vi dicevamo poco fa, proprio sui temi appunto della par condicio e anche della diffusione dei sondaggi, perché in merito a questi temi ci sono state un po' di polemiche in settimana. Stefano, io mi sono fatto l'idea, sbaglierò, che quest'anno i sondaggi rischino di coglierci un po' poco, specie dalle parti di Grillo e forse anche dalle parti di Giannino. Si tratta di due fenomeni politici nuovi che effettivamente che mobilitano qualche cosa che potrebbe essere anche intorno al 20% dei voti, no? E quindi è evidente che c'è un margine di assoluta incertezza anche per i sondaggisti, non ci sono termini di paragone. Di sicuro Grillo è destinato ad avere un rilevante successo e quindi porterà in Parlamento un gruppo completamente nuovo con tutte le incognite del caso. E Giannino ha fatto una campagna intelligente e soprattutto nei dibattiti televisivi ha dimostrato di avere più benzina degli altri, ha proposto delle idee, è stato piuttosto chiaro. Quindi anche lui è stato uno dei protagonisti originali, nuovi, di una campagna elettorale che peraltro ha dimostrato come molti dei grandi schieramenti siano davvero in debito di idee e di proposte. Tra l'altro, sempre da questi sondaggi, e sono sondaggi di ieri, io spero di non violare la legge a parlarne oggi, ma appunto sono sondaggi di ieri, quindi su quelli ci basiamo. Quelli si può parlare. Di quelli penso che si possa parlare. Continua ad emergere questo dato dal lato astensione e indecisi, che è quello veramente importante, insomma, al minimo diciamo la somma di astenuti più indecisi, gente che pensa di astenersi o che è indecisa, al minimo è calcolato sopra il 30%, ci sono addirittura istituti che li danno al 39%. Guarda, qui ci sono varie opinioni. Molti dicono che in realtà queste saranno elezioni in cui il tasso di astensione sarà più basso, cioè gli italiani andranno più a votare perché c'è stata una grande mobilitazione, una grande attenzione, e vedo per esempio Piepoli che dice che anche quelli che si dichiarano indecisi parlando con il sondaggista, in realtà molti di loro hanno in cuor loro deciso per chi votare, ma non lo vogliono dire. Quindi stiamo a vedere, ecco, la sensazione è che effettivamente ci sia una grande attenzione per questo voto e quindi forse anche una partecipazione che sarà più alta di quello che si può immaginare. E quindi probabilmente, insomma, anche vedremo, insomma, comunque sui risultati. Veniamo a come si sta svolgendo questa campagna elettorale. Insomma, oggettivamente, Stefano, ne abbiamo parlato anche ieri in trasmissione a 9 in punto. La fiera delle promesse, per carità, è la campagna elettorale, ma qua siamo tra i 4 milioni di posti di lavoro e dopo l'IMU è arrivata l'IRPEF. Insomma, manca. Siamo sempre là, siamo sempre sul fisco, sull'economia, eccetera. Mancano le idee. Esatto. Guarda, una studiosa di politica molto brava, che è Sofia Ventura, ha detto una cosa, secondo me, piuttosto vera. Ha detto che in realtà questa campagna è un rinfacciarsi l'un con l'altro su chi ha commesso i maggiori errori durante il periodo in cui una certa parte politica ha governato. Siccome hanno governato, o comunque si sono confrontati in Parlamento, schieramenti diversi, e ognuno rinfaccia all'altro che nel corso degli ultimi 10-12 anni ha commesso i maggiori errori, ma tutti si propongono semplicemente come il meno peggio. Non c'è una visione convincente del paese e di che cosa bisogna fare da domani, cioè dal 25 febbraio, per risalire la china. Questo purtroppo è un grave errore da parte delle forze politiche tradizionali. Più che un errore, deriva dalla pochezza delle idee messe in campo, che vengono sostituite da promesse più o meno credibili, anzi poco credibili spesso. Io sarò ripetitivo, ma coltivo la convinzione che il vero ruolo della politica, quella alta, dovrebbe essere immaginarsi un paese tra 20 anni e iniziare a progettarlo. Da questo punto di vista la vista è cortissima, no, in questo momento. Sì, è questo. E ora è chiaro che una campagna elettorale non è il momento più adatto per fare grandi scenari futuribili come se fossimo in un seminario di studi, questo è chiaro. Però si tratta di evocare qualcosa, di evocare un'aspettativa, di evocare una speranza, quello che ha saputo fare egregiamente Obama negli Stati Uniti per 2 volte, per esempio. In genere le campagne elettorali si vincono così, prospettando un'idea di futuro, un'idea, non diciamo un programma di 200 pagine, ma un'idea di futuro che dà la sensazione a chi deve andare a votare che il domani sarà migliore dell'oggi. Stefano, che cosa ti pare di questo Mario Monti pop, per così dire? Adotta il cucciolo, lo spot con i nipotini. Ma gli auguro di essere convincente. Io continuo a pensare che la parte migliore di Monti è quella in cui lui è se stesso. Magari un po' troppo austero, un po' troppo professorale, però che dia un'idea di serietà e anche, diciamo, di promettere meno di quello che poi pensa in cor suo di poter mantenere. Non mi piace di meno quando sembra accettare le regole del mercato elettorale. Dal lato degli altri attori in campo, abbiamo già accennato qualcosa, Grillo e Giannino, magari ci torneremo, soprattutto su Grillo, insomma, questa campagna elettorale giocata molto nelle piazze a differenza di tutti gli altri. Ti voglio portare sul Partito Democratico, che continua a dimostrare, devo dire la verità, una certa debolezza, almeno all'apparenza, insomma, almeno per come la vedono gli elettori, per come li vediamo in televisione, se vogliamo. Ma Bersani ha fatto una scelta, in un certo modo lui vuole essere molto serio, no? Vuole evitare la demagogia, per l'altro verso, certo, è un po' un punto interrogativo, e per le politiche che potranno essere attuate, ma soprattutto per la capacità che potrà avere Bersani domani da presidente del Consiglio in pectore, in quanto, insomma, si suppone che esca dalle urne come partito di maggioranza relativa, la capacità che potrà avere di tenere insieme Monti e la sinistra della sua coalizione, il solito discorso. Cioè ci vuole una grande, non che, non sia, che sia impossibile, ma ci vuole una grande capacità politica di mediazione per riuscirci, e riuscirci in un momento tempestoso, perché insomma le difficoltà del governo saranno evidenti fin dal giorno successivo. Ecco, questo, su questo punto Bersani trasmette un'immagine secondo me un po' appannata ancora, e può essere che l'opinione pubblica abbia dei dubbi al riguardo. Infatti il Partito Democratico non riesce realmente a sfondare nell'opinione pubblica, pur essendo, lo confermano tutti i sondaggi, il partito meglio piazzato per il voto, e nonostante diciamo i grossi incidenti di percorso, compreso la questione del Monte dei Paschi. È stata in effetti a plastica dimostrazione di quello che dici la settimana delle porte che si aprono e si chiudono, insomma, Bersani che apre a Monti, Monti che apre a Bersani, Vendola che chiude a Monti, insomma, questo è stato più o meno il quadro della settimana. Siamo in campagna elettorale e è evidente che le cose che vengono dette non sono da prendere come oro colato. Si vedrà dopo il voto e si vedrà in base ai rapporti di forza usciti dalle urne. Berlusconi invece si sta andando a riprendere apparentemente i suoi elettori uno per uno per la collottola. Sì, vediamo. Anche qui, insomma, questa rimonta berlusconiana, poi tutto sommato, è molto mediatica, no? Viene molto enfatizzata dai giornali, dai portavoce del centrodestra, e naturalmente si tratta di galvanizzare gli elettori. In fondo, diciamo, il centro-sinistra lascia fare, perché l'idea che ci sia un Berlusconi in rimonta tutto sommato non può anche non dispiacere agli strateghi del centro-sinistra, perché vuol dire aiuta a mobilitare gli elettori appunto della sinistra, no? Li porta alle urne e evita l'idea che qualcuno pensi, magari siccome si crede che la partita sia già stata vinta ormai dal centro-sinistra, qualcuno potrebbe pensare di starsene a casa. Quindi l'idea di un Berlusconi in rimonta può non dispiacere anche nel centro-sinistra. In realtà i sondaggi dimostrano che tutto questo avvicinamento non c'è. C'è un po' di avvicinamento, ma il margine fra le due coalizioni è ancora piuttosto ampio, relativamente ampio, mentre invece la sensazione che ci sia un grillo che ha ripreso a macinare non solo i chilometri delle città italiane che attraversa, ma anche i voti. Devo dirti, da questo lato io sono rimasto impressionato. In settimana ho avuto l'occasione di andarlo a vedere, anche per curiosità professionale, insomma, di andare a vedere Grillo. Sono andato a vederlo e devo dirti che colpisce molto, insomma, queste piazze piene a Padova, dicevano, non si vedevano dai tempi di Berlinguer. È una campagna elettorale potente, diversa da quella di tutti gli altri. È una campagna fatta su schemi tradizionali. Il comizio in piazza è un genere in disuso, no? Nell'era dei talk show televisivi. E Grillo lo fa e porta in giro questo suo messaggio, che poi naturalmente può piacere o non piacere, se, ovviamente è meritevole di qualsiasi tipo di critica, però ha scelto un metodo in controtendenza, giocando sull'effetto che può fare l'uomo solo contro tutti gli altri. E questa è una strategia che di solito elettoralmente paga. E probabilmente appunto sta pagando. Chiudiamo. L'unico del quale non abbiamo parlato è questo Ingroia, che non si riesce a capire se arriva alla soglia di sbarramento. È un oggetto misterioso. Da una parte è una spina nel fianco di Vendola e della sinistra del Partito Democratico, è logico. E dall'altra parte i sondaggi sono incerti sulla sua possibilità che possa superare l'asticella del 4% alla Camera, mentre al Senato tutti i sondaggi lo danno non presente, o forse presente con un paio di senatori al massimo, perché come sappiamo il sistema elettorale è diverso. Alla Camera gioca questa sfida intorno al 4%, alcuni sondaggi lo danno sopra questa soglia, altri lo danno lì, insomma è un oggetto misterioso, infatti, e indubbiamente il suo messaggio politico è urticante, e soprattutto verso il Partito Democratico e verso Bersani. Dà l'impressione che sia Bersani il suo vero obiettivo da battere, e questo naturalmente determina molti dubbi in quel mondo, in quell'area politica ed elettorale. Grazie, grazie anche per questa settimana, Stefano. Grazie a te, Simone. Ciao, a presto. Buona giornata e buon lavoro. Noi ci fermiamo, poi ci ritroviamo tra un attimo. Come si diceva, vi proporremo un'intervista che abbiamo realizzato col presidente dell'Authority per le telecomunicazioni. Abbiamo parlato di par condicio, perché c'è stata questa affermazione che insomma, ha fatto molto discutere, che ci vorrà in futuro una par condicio anche per internet. E poi c'è la questione dei sondaggi e di un'applicazione di SVG per i sondaggi che si poteva scaricare sui propri dispositivi, in specie quelli della Apple, che è stata bloccata di fatto dalla G-Com, e questa vicenda appunto ha fatto discutere. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci a parlare di par condicio. Lo sapete tutti, la par condicio è una legge che impone a noi che facciamo informazione sulla radio, sulle televisioni, parità di accesso alle varie forze politiche, alle nostre trasmissioni e ai nostri giornali radio. Una legge complicata da rispettare, come capirete, perché bisogna calcolare i minutaggi molto rigidamente. Nelle settimane scorse ha fatto molto discutere in rete un'affermazione del presidente dell'Authority per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, che ha detto che andrebbe esteso il concetto di par condicio anche a internet, anche alla rete. Bene, gli abbiamo chiesto delucidazioni. La prima domanda che gli abbiamo fatto è proprio questa. Ma a dire la verità, io non ho mai detto che la par condicio debba essere estesa alla rete oggi, domani o dopodomani, rete o social network che siano. Quello che ho sostenuto è che nella misura in cui un giorno il coinvolgimento della rete e attività sulla rete diventassero preponderanti, il Parlamento potrebbe doversi occupare di questo problema, che è totalmente diverso dal dire che domattina io voglia saltellare ovunque mettendo il bavaglio a tutti coloro che operano sulla rete. Devo dire che la rete ha un livello di sensibilità estremo e quindi reagisce in maniera molto immediata a qualsiasi cosa riportata correttamente o riportata in maniera sintetica da chi fa i titoli e quindi deve costringere in poche parole un'idea più complessa. Ma secondo lei, dal punto di vista pratico, un Parlamento che si dovesse occupare di una cosa di questo genere, e come se ne dovrebbe occupare? Perché insomma, sinceramente, da frequentatore della rete, da persona che ci sta quotidianamente, una cosa di questo genere mi riesce anche solo difficile immaginarla. Beh, direi che ha perfettamente ragione. Cioè, da un punto di vista tecnico, credo che sarebbe estremamente complesso che è molto vicino al concetto di impossibile. In ogni caso, sarebbe un dovere di chi scrive le leggi, non di chi applica le leggi come facciamo noi. Io credo che il Parlamento debba fare in modo di garantire accesso a tutti, allo stesso modo debba tentare di evitare, cosa che ha sempre fatto finora, almeno con la legge del Toto del 2000, che una qualche parte politica prenda il sopravvento sulle altre nel diffondere le proprie idee, giuste o sbagliate che siano, ma insomma è un problema di se c'è la preponderanza di uno c'è un minore accesso degli altri, quindi l'accesso deve essere garantito per tutti. Quando la comunicazione lascia i mezzi tradizionali e si sposta sui social network, sulla rete, sulle varie fattispecie, bene, forse il Parlamento può sentire il bisogno di farlo, dovrà trovare o indicare il metodo tecnico per realizzarlo, che, ripeto, è talmente difficile da immaginare da rasentare l'impossibile. È anche vero una cosa: stiamo parlando di settori a, per definizione, ad alta tecnologia. La tecnologia evolve, chissà che per quando il problema sarà ritenuto importante dal Parlamento la tecnologia non ci fornisca un suggerimento. Non le sembra, Presidente, proprio perché la tecnologia evolve, proprio perché la rete è un mezzo così particolare, che nel momento nel quale la rete inizierà ad avere una preponderanza nella comunicazione politica, una legge come quella sulla par condicio potrà invece sembrare vetusta? Ed è appunto per quello che andrebbe modificata. Nel senso che quello che io credo è che ci siano dei concetti fondamentali che sono alla base del vivere civile e del dibattito politico, concetti fondamentali che vadano difesi in qualsiasi coniugazione, sia una coniugazione come posso dire, vecchio stile, sia coniugazione nuovo stile, ma in ogni caso deve esserci una difesa. Allora, abbiamo uno stile nuovo, se il Parlamento riterrà di trovare nuovi metodi per difendere quei principi fondamentali, bene, ben vengano. I principi vanno difesi, la libertà è libertà, l'accesso è accesso, e questo nelle aule del Parlamento, sugli schermi televisivi, nelle radio, ovunque. Un'ultima domanda su questo tema e poi, Presidente, vorrei passare invece alla questione dei sondaggi, che è un'altra questione che è stata in ballo e che ha coinvolto appunto la rete. Ed è il punto è questo: la par condicio alla fine è una legge che è nata perché c'era un soggetto politico che aveva una posizione predominante sulle reti di proprietà del capo politico, sulle reti di proprietà del capo, esatto, del soggetto stesso. Allora, il punto è questo: dato che la preponderanza nella rete è una cosa completamente diversa, è ottenibile anche con mezzi minori, tutto sommato, con mezzi inferiori, non è semplicemente che su questo non vale la pena nemmeno ragionarci? Ah, guardi, a livello di oggi sicuramente, assolutamente non vale la pena di ragionarci. Io sto parlando di un futuro che può essere lontanissimo o lontano, nel senso che, dato i tassi di propagazione di qualsiasi fenomeno sulla rete, questi tassi sono generalmente altissimi, è possibile che si arrivi in un futuro non lontanissimo a questo bisogno. Attualmente le proporzioni fra i due mezzi, quello chiamiamolo nuovo, la rete, e vecchio, giornali, televisioni, radio, eccetera, è talmente sbilanciato a favore dei secondi che non ha nessun senso provare nemmeno a misurare, cioè uno se ne rende conto diciamo senza una misurazione scientifica. Più avanti potranno cambiare queste cose. In ogni caso io sono perfettamente d'accordo con lei, ogni legge ha una sua origine. Anche perché poi, mi perdoni, gli emittenti sono potenzialmente infiniti in rete, cioè mentre così non è per la televisione e per la radio, no? Assolutamente, quindi ci sono tutta una serie di elementi che fanno sì che internet abbia delle caratteristiche strutturali totalmente diverse dalla radio o dalla televisione, quindi diciamo c'è una caratteristica di pluralismo naturale di internet, e quindi diciamo questo momento potrà essere lontanissimo. Io credo che sia un problema al momento puramente intellettuale, senza necessità certo di strapparsi i capelli per chi ce li ha, essenzialmente io ne ho pochi, per cose che saranno sicuramente in un futuro, insomma, non certo quest'oggi. Veniamo alla questione dei sondaggi, Presidente, la questione della diffusione dei sondaggi in rete. C'è, come sappiamo, la legge, ormai più o meno lo sanno tutti, insomma, la legge obbliga a non diffondere sondaggi, almeno da parte, insomma, dei mezzi di comunicazione e da parte delle società di sondaggi, nelle 2 settimane precedenti il voto. Da questo punto di vista c'è stato un parere vostro che io le chiederei di spiegarci un po' meglio, cioè nelle comunità per così dire chiuse, come per esempio Facebook, forum ad iscrizione, cose di questo genere si possono diffondere, e per esempio su Twitter, dove la diffusione è potenzialmente infinita, no? Come funziona? Ce lo spiega un pochino meglio. Ma partiamo da un presupposto fondamentale, cioè che la legge, a torto o a ragione, ma è una legge dello Stato e va applicata, vieta la diffusione dei sondaggi negli ultimi 15 giorni. Quindi questo per vari motivi, immagino perché la ratio principale sia perché ritiene che un sondaggio dia un orientamento e un potenziale orientamento al voto degli elettori, soprattutto quelli indecisi. Allora, se è impossibile, vietata la diffusione di messaggi, di sondaggi, questa diffusione deve essere vietata con qualsiasi mezzo. Il fatto che siano diffusi attraverso televisione, radio o giornali non fa nessuna differenza, sono vietati. Allora, se un operatore, un agente economico, come la società a cui lei ha fatto riferimento, mette a disposizione di un numero potenziale altissimo di utilizzatori attraverso un sistema alla disposizione di un numero elevatissimo di consumatori, un prezzo non escludente, se il prezzo fosse elevatissimo probabilmente solo poche persone potrebbero permetterselo, ma il prezzo non è tale da spaventare moltissimi consumatori. A questo punto l'autorità ha ritenuto che questo tipo di diffusione fosse del tutto paragonabile a una diffusione attraverso la televisione, attraverso la radio, attraverso giornali, una diffusione di massa, e quindi ha allargato il divieto a questa diffusione. Presidente, ci interrompiamo un attimo, c'è una pausa per la viabilità e poi su questa vicenda, io in realtà non avevo nominato la società, ma parliamo di SVG che ha creato un'applicazione apposta per i sondaggi politico-elettorali, che tra l'altro è tra le prime in classifica per quanto è stata scaricata, insomma, nell'Apple Store, è di questa che stiamo parlando. Ci ritorniamo tra un attimo perché anche su questa vicenda ho un paio di domande di approfondimento. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. E allora, siamo ancora con il presidente dell'Autority per le Telecomunicazioni. Presidente, stiamo parlando della vicenda SVG, ossia di questa app, che comunque costa quasi 10 euro, insomma, Presidente, ma che lei diceva, insomma, il prezzo non esclude il mercato di massa, però, insomma, per un'applicazione è una bella cifra. Ma a prescindere da questo, perché qua la valutazione può essere naturalmente soggettiva, però l'SVG vi ha interpellato prima di creare questa applicazione e voi sostanzialmente gli avete detto sì? No, dunque il problema è diverso, nel senso che è stata rivolta una domanda in termini meno precisi di quanto si possa immaginare al nostro call center, che è diverso dal dire che è stata interrogata l'autorità. Tant'è vero che la decisione di ieri è una decisione del Consiglio, dell'autorità, e non di un funzionario che sta a un call center e riceve una quantità di domande altissime al giorno e ha una diciamo maggiore difficoltà nell'analizzare con approfondimento un tema abbastanza complesso. Quindi l'autorità non ha cambiato parere, l'autorità ha un solo parere che è quello del Consiglio. Il call center è una fonte di informazione e di aiuto ai consumatori, ovviamente soggetto a errore. Chiaramente, un'ultima domanda sempre su questo tema dei sondaggi. Nelle scorse tornate elettorali, Presidente, si è diffusa su internet, appunto, si venivano diffusi questi sondaggi in forma mascherata, dei sondaggi che venivano fatti probabilmente dalle stesse società che se ne occupano e venivano raccontati come se fossero delle corse di cavalli, dove, tanto per fare un esempio, Varen era il PDL, insomma era Silvio Berlusconi. Allora, da questo lato, questo fenomeno lo state anche tenendo sotto controllo oppure no? Ma guardi, io devo confessarle che al termine della precedente tornata elettorale facevo un altro mestiere molto più felice di questo. Per quanto riguarda le corse dei cavalli, finora non ce ne siamo mai occupati che io sappia, ma non escluso dopo la sua segnalazione che ce ne occuperemo quando ci saranno dette corse, cioè dopo i risultati elettorali, come ha detto lei. Noi cerchiamo, guardi, con tutta sincerità, noi cerchiamo di fare bene il nostro mestiere, crediamo nella correttezza dell'applicazione della legge. Dopodiché, se dobbiamo correre dietro a sondaggi, a cavalli o a chiunque altro, beh, insomma, lo facciamo. Un'ultima domanda, io so che non mi risponderà su questa, Presidente, però insomma è mio dovere provarci. Dato che abbiamo parlato molto di par condicio, abbiamo parlato molto di questa legge sui sondaggi, insomma sulla norma che impone che nelle ultime due settimane i sondaggi non vengano diffusi. Queste due norme, insomma la legge sulla par condicio e la norma sui sondaggi, le sembrano parte della stessa legge, ma le sembrano ancora attuali? Assolutamente no. Io quello che le ho detto prima è che la legge va applicata finché esiste, dopodiché noi abbiamo una intenzione serissima di raccogliere tutta una serie di dubbi che abbiamo, tutta una serie di inadeguatezze che abbiamo rilevato e di fare una segnalazione al nuovo Parlamento quando il nuovo Parlamento si sarà insediato e avrà tempo di occuparsi di queste cose. Cioè, a parte mille difetti di funzionamento che non le elenco perché sono mille e annoierebbero, c'è il naturale invecchiamento di una legge che è del 2000, e nel 2000 il mondo era diverso. Perché alla fine se ne ragiona spesso con dei colleghi, glielo dico sinceramente, insomma, in queste due settimane poi succede di tutto, perché uno si ritrova in retroscena politici sui giornali nei quali si racconta che qualche segretario di partito dice che i sondaggi gli stanno facendo bene, beh, insomma, forse è più fuorviante quello che avere il sondaggio vero e proprio, no? Assolutamente, ci sono mille complicazioni che andrebbero corrette, eliminate, ma pensi semplicemente al mal di capo di un suo collega direttore di testata che deve cercare di dare un accesso equiproporzionale a 27 liste all'interno di uno spazio di informazione che non dura 27 ore, ma al massimo può durare 24. Non ce lo dica a noi, non ce lo dica a noi, Presidente, che siamo una radio news and talk, e quindi insomma necessariamente a ciascuno la sua croce. Esattamente, con questo ci dobbiamo confrontare. Grazie al Presidente Cardani per essere stato con noi e buona giornata. Grazie, arrivederla, dottore. Chiudiamo così questa puntata di Votantonio. Un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia vi ricordo i contatti: votantonio@radio24.it. Vota Antonio R24 è la pagina Facebook, ci trovate là. Vota Antonio R24 è anche l'account Twitter. Una buona giornata per gli affezionati della trasmissione. Ci risentiamo sabato mattina dopo il GR delle 9. Altrimenti, se volete, con me, insomma, mi ritrovate lunedì mattina per 9 in punto.